dire che una delle ragioni che causano certamente il nero è quello delle società, perché di solito questi immobili ce li hanno delle persone fisiche che hanno un certo reddito, e quindi si arriva tranquillamente tra questo e l'ICI il 42 e il 43%. A un certo punto c'è quasi l'invito ad andare in nero perché è esoso, e quindi questa cedolare secca, che speriamo non venga annacquata, alla fine risolverebbe il problema, perché sarebbe molto semplice da calcolare, molto semplice da capire, molto semplice da pagare, farebbe emergere il nero, certamente non risolverebbe forse il problema alla radice una volta per tutte, ma certamente concordo tantissimo, e lei me l'ha sentito dire altre volte, col professor Forte quando si parla di demagogia, perché quel 3% da dare all'inquilino è demagogia soltanto, non si risolve così il problema si risolve con una cedolare secca, che sia effettivamente secca, che sia il 20%, perché questo farebbe emergere e renderebbe conveniente a molti proprietari affittare alla luce del sole, per dormire tranquilli, perché in fondo il contribuente non chiede che questo, che le tasse, poi non dimentichiamo che le tasse in Italia sono, parlo della media, il 43,5, siamo il terzo paese in Europa per pressione fiscale con dei servizi da terzo mondo, quindi è giusta questa cedolare secca, che ricordo tutti i partiti volevano, quando c'era ancora la Margherita, i DS, i CO, il PDL, tutti volevano la cedolare secca, AN, eccetera. Adesso finalmente questo governo dice di mantenere la parola, spero che non la annacquino, che non la cambino, perché questa è utile, secondo me è valida per far emergere il nero, per abbassare la tassazione, in fondo è 1 miliardo di euro secondo i nostri calcoli che costerebbe alle casse dello Stato, una cosa consistente ma non da tanto da sbilanciare i conti pubblici, e facendo i calcoli, vedendo città come Milano, Roma, noi ci siamo applicati a fare un po' di conteggi, abbiamo visto per esempio Milano, un impiegato del commercio con un reddito 30.000 euro, no? Che ha un affitto di 1.000 euro mensili, no? Che riceve un coso, cioè ci guadagnerebbe qualcosa con la cedolare secca come 1.600 euro in più, cioè rimarrebbero nelle tasche, è una consistente riduzione, abbiamo fatto il caso di Mestre, di un operaio metalmeccanico 18.000 euro che riceve in eredità una casa, perché con 18.000 euro è difficile che ne abbia una in più, e abbiamo visto che un affitto di 750 euro mensili avrebbe un vantaggio di 334, non poca cosa, nel senso che finalmente si va nella direzione giusta, secondo me. Lo stesso a Roma, abbiamo fatto un calcolo di un lavoratore autonomo, 40.000 euro di reddito e 900 euro mensili di affitto, avrebbe un vantaggio di 1.567. Ripeto, nel senso giusto, mantenere la parola rispetto agli elettori, che tutti i partiti volevano questo provvedimento, mantenerla sarebbe la prima volta forse in Italia che si fa una cosa fatta bene, che fa emergere il nero, il sommerso, e che soprattutto dà agli elettori la sensazione che si mantiene la parola. Gli affitti caleranno per opera di questo 20%, perché il proprietario non si sentirà, secondo me, più di sfidare i rigori della legge, che in questo caso sembrano grida manzoniane a volte, ma sono molto rigorose, poi le sanzioni sono molto dure, molto consistenti, non si sentirebbe di sfidarle avendo questo notevole vantaggio.